Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, state ascoltando Restiamo Animali, una trasmissione, come ci piace dire, per vivere, pensare e agire cruelty free. O anche, se preferite, per una società non violenta. Questa è la puntata numero 456, nella quale parleremo soprattutto di Siena, città senza gloria e senza cuore, ma ci sarà spazio anche per parlare di cultura antispecista, di buona musica e di cucina non violenta. Speriamo di avervi incuriositi. Cosa di grottesco nel ricordare la fine della prima guerra mondiale con un palio di Siena straordinario, una corsa nella quale dal 1975 a oggi sono morti 51 cavalli. Alla beffa si è poi aggiunto il danno, il cavallo Raoul della giraffa è caduto rovinosamente spezzandosi una gamba ed è stato abbattuto. La scena dell'incidente, filmata e messa in rete dagli spettatori presenti, con il povero cavallo che si rimette in piedi e saltella per il dolore lancinante, per il terrore, con una zampa spezzata, la cui parte inferiore sta roteando letteralmente nell'aria, è straziante. Questo non impedisce a Rai 2 di procedere con la diretta TV e all'intera piazza di inebriarsi per la vittoria della Tartuca, con il cavallo scosso Remorex, festeggiando pazzamente, neanche fossimo, al Carnevale di Rio. Il bilancio della corsa è infamante. Un articolo della Nazione parla di 9 fantini caduti, 2 dei quali finiti all'ospedale per traumi, più il cavallo infortunato gravemente che poi verrà soppresso, il tutto in diretta TV con immagini scioccanti che rimbalzano sui social. Per ricordare la fine della Prima Guerra Mondiale, insomma, è andato in scena il 20 ottobre un brutto spettacolo a Siena. Le reazioni non si sono fatte attendere e noi ve ne proponiamo una carrellata. Cominciamo con il consigliere della RAI, Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti RAI e il loro rappresentante nel consiglio di amministrazione. Laganà ha definito ormai fuori luogo trasmettere eventi come il Palio di Siena, che certamente non educano al rispetto delle caratteristiche etologiche dei nostri amici animali. Abolire almeno la diretta televisiva, secondo noi, sarebbe già un cambio di passo. Però lo ricordiamo, Laganà è stato battuto dal giornalista Marcello Foa, gradito a Salvini, alla presidenza della RAI. E come sappiamo, Salvini ha anche assistito personalmente al Palio di Siena. Pertanto sarà molto difficile che la RAI rinunci alla diretta. Passiamo all'associazione dei consumatori Codacons, che si è pronunciata annunciando un esposto alla Procura di Siena per la morte del cavallo Raoul. Già in passato, ha spiegato in una nota il presidente Carlo Rienzi, ci siamo rivolti alla magistratura per denunciare l'abbattimento di cavalli a seguito del Palio di Siena, una manifestazione che rappresenta un indubbio pericolo per l'incolumità degli animali e che appare obsoleta e immotivatamente cruenta. L'associazione chiede infine una valutazione seria delle possibilità di imporre il divieto a questa e ad altre manifestazioni analoghe che possono provocare danni e lesioni agli animali. Dopo Codacons, veniamo a EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. La morte di Raoul non è né casuale né imprevedibile. Visti i nefasti trascorsi del palio, era un evento con elevata probabilità. La scelta di ricordare la fine della Grande Guerra con il Palio di Siena, che ha un lungo passato di morti animali, e il fatto che un cavallo sia deceduto proprio in occasione di tale ricorrenza, continua la presidente nazionale dell'EMPA Carla Rocchi in un comunicato, rende poi la vicenda ancora più paradossale e inaccettabile. Il palio è una manifestazione anacronistica che ormai non ha altra ragion d'essere se non quella di farsi strumento di marketing anche politico. Anche EMPA presenterà una denuncia a seguito della morte del cavallo Raoul. La magistratura accerterà le responsabilità penali di questa ennesima morte, ma quelle morali e politiche sono evidenti per sé. Dopo EMPA passiamo all'AV. Anche l'AV presenterà una denuncia per la morte del cavallo Raoul. Lo annuncia la stessa associazione animalista spiegando che dal 1975 a oggi sono 51 i cavalli morti accertati a causa del Palio di Siena e chiedendo al neo presidente della RAI Marcello Foa di rendere pubblico qual è l'accordo nella sua presumibile entità economica per le due dirette televisive, quelle estive, e per questo terzo palio straordinario organizzato il 20 ottobre in diretta su Rai 2 per celebrare la fine della Grande Guerra. Per la LAV, evidentemente, nel 2018 i cavalli sono ancora in guerra, fino alla morte. Con il benestare degli addetti ai lavori? Forse, di certo, senza il benestare, continua l'AV, di tanti cittadini e telespettatori indignati per uno spettacolo che ha mandato a morte o ha contribuito a mandare a morte così tanti cavalli. A red dial, nothing else. White disc divided in minutes. Unless it be in seconds. 60 black dots, no figure, one hand only. Anche l'associazione Italian Horse Protection, che è un po' il nostro punto di riferimento su tutto quello che riguarda i cavalli per il lavoro che svolge da anni contro il loro maltrattamento, ha preso una netta posizione. Ecco l'audio di un video diffuso dal presidente di Italian Horse Protection, Sonny Ricchichi. Dopo l'ennesimo cavallo ammazzato ieri al Palio di Siena, è l'ora che tutti sappiano la verità, perché è giunto il momento di smetterla, di indignarsi e di fare qualcosa perché questa mattanza finalmente finisca. Il Palio di Siena viene spacciato come tradizione, ma di tradizionale ormai non ha più nulla di quello che era anticamente il vero Palio di Siena, ammesso e non concesso che fosse accettabile per come venivano trattati gli animali anche in quel contesto. Oggi il Palio di Siena è una corsa a tutti gli effetti, dove le caratteristiche principali sono due: il giro di soldi che coinvolge Comune, Contrade e Fantini è una pista che è fatta apposta per innescare l'incidente con due curve a 90 gradi. Il Palio di Siena viene trasmesso dalla RAI, che è complice di Stato di questa vergogna. Il Palio di Siena viene decantato da giornalisti, politici e VIP che o sono disinformati o dovrebbero vergognarsi, a seconda dei casi. La verità è che a Siena sono morte decine di cavalli negli anni e che chissà quante altre decine, o se non di più, sono stati vittime di incidenti nelle prove che si fanno prima del Palio di Siena o nelle prove che coinvolgono i cavalli durante tutto l'inverno, perché forse non tutti sanno che a Siena arriva solo una selezione di decine e decine di cavalli che nei mesi precedenti il Palio di Siena vengono fatti correre in piste costruite sulla falsa riga di Piazza del Campo. che a Siena vengono fatti correre fantini che non provengono dalla tradizione, non provengono da Siena, salvo forse qualcuno per caso, ma sono coinvolti in una sorta di circuito professionale che li vede correre in tutta Italia in pali, quintane e giostre, quindi sono una sorta di professionisti che oltre a guadagnare dei bei soldi non hanno alcun legame col cavallo che montano. Quindi il loro obiettivo è solamente quello di spingerlo al massimo e l'obiettivo finale non è salvaguardare il cavallo come magari poteva essere nella tradizione antica del palio. Che a Siena vengono fatti correre fantini che sono indagati per doping, maltrattamento ad animali e truffe. E questo anche si deve sapere. Che a Siena, proprio per come è fatta la pista, il cavallo è consapevolmente esposto al rischio di un grave incidente. Perché un cavallo lanciato al galoppo, data l'anatomia dei suoi arti, a percorrere una curva di 90 gradi è quasi aritmeticamente soggetto o a un incidente o a un ferimento o comunque a un rischio grossissimo di andare incontro a questo pericolo. E quindi anche qualsiasi veterinario che sia ingaggiato a supporto del Palio di Siena dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e magari rileggersi anche il codice deontologico. A Siena è l'incidente la molla vera e principale della manifestazione del Palio. Niente tradizione, niente animosità popolare, è quella che crea lo spettacolo. E sappiate che quando i senesi dicono che trattano bene il cavallo, non stanno parlando dell'animale, stanno parlando del mezzo che metteranno in pista, né più né meno di come si tratterebbe bene una MotoGP che deve correre un gran premio. Ma come dicevo, ormai le parole non bastano più e indignarsi aspettando il prossimo palio, il prossimo incidente, il prossimo cavallo ammazzato, non basta più. Serve che l'opinione pubblica tutta, i cittadini capiscano e comprendano quello che c'è dietro la facciata trasmessa dalla RAI e raccontata da giornalisti, se ne faccia una ragione e ponga fine o ci affianchi per porre fine a questa mattanza. Basta così. Pioggia di critiche, la città non ha potuto far finta di nulla e così il sindaco di Siena, Luigi De Massi, eletto nel giugno di quest'anno, si è visto costretto a dire la sua e ha convocato una conferenza stampa di fronte alla clinica veterinaria Il Ceppo, proprio quella nella quale è stato abbattuto il cavallo incidentato. La nostra municipalità non ha bisogno di giustificarsi di alcunché per quanto riguarda la nostra cultura, la nostra tradizione, la nostra festa. Ha esordito così il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, che, lo ricordiamo, si è candidato con il centrodestra. De Mossi è contradaiolo della nobile contrada del Nicchio, di cui è stato anche tenente tra il 2014 e il 2016, quindi implicato nelle faccende del palio. Uscito poi vincente al ballottaggio nel giugno 2018, De Mossi è stato sostenuto politicamente dagli onorevoli Maurizio Gasparri, Antonio Tajani, Alessandra Mussolini, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La linea difensiva di Mossi ha toccato, bisogna dirlo, alcune vette, come per esempio queste. I cavalli sono fatti per correre. La vita e la morte sono accidenti della vita. Poi gli altri elementi usati per la difesa sono stati più o meno questi. Intanto alla clinica convenzionata, quando è morto Raoul, c'erano tanti contradaioli della giraffa che potevano benissimo continuare a guardare la nostra festa e sono venuti. E questo è segno di amore, non certo di cattiveria. Così il sindaco voleva dimostrare che non c'era stato il disinteresse. Siena, poi, ha continuato il sindaco, è leader mondiale per quanto riguarda la prevenzione e i cavalli sono amatissimi. In cosa si sostanzia questa prevenzione? Dal 2000 Siena ha deciso di non prendere più i puro sangue per correre il palio. Quindi cosa ha fatto? Ha selezionato dei soggetti mezzo sangue anglo-arabi che avessero le caratteristiche morfologiche di altezza algarrese di misure tali da renderli adatti non solo per vincere il palio, ma anche per avere una resa dal punto di vista della salute più equilibrata. Insomma, stanno creando in laboratorio il cavallo da palio di Siena. La difesa del sindaco si è poi conclusa con una minaccia. Il comune di Siena intraprenderà azioni legali contro chi ha insultato la città. Sicuramente sui social ci sono stati anche degli insulti, però ci sono state anche tante critiche circostanziate. Solitamente quando si definiscono insulti le critiche, lo si fa per distrarre l'attenzione dalla sostanza alla forma. Inoltre il sindaco ha detto: il discrimine è tra quelli che vogliono bene a Siena e quelli che a Siena non vogliono bene. Beh, noi pensiamo che Siena non sia solo il Palio. Si può benissimo amare Siena e criticare il Palio. Mentre dalle parole del sindaco sembra quasi che Siena sia solo il Palio. Ci sembra che il primo a offendere la città sia proprio lui. Dopo essere stata a Siena per vedere se sono crudeli con gli animali, ho deciso di rinascere cavalla. Ma sì, conviene rinascere cavalle. Dico cavalle perché i maschi sono castroni. È il solo lavorino sgradevole che gli fanno. Scrisse questo Paola Fallaci, sorella della più famosa Oriana, nel 1986. Da allora sono passati tanti anni, chissà. Cosa direbbe Paola Fallaci sapendo che dal 1975 a oggi a Siena, a causa del palio, sono morti 51 cavalli. E chissà, magari uno di quei cavalli morti era proprio lei in una delle sue reincarnazioni. Killing time. Quasi monografica sul Palio di Siena, per rinfrancare lo spirito e nutrire la mente, passiamo a presentarvi una rivista culturale che seguiamo con attenzione per gli spunti che propone. Si tratta di Liberazioni, rivista di critica antispecista, che è giunta al suo nono anno di età. La rivista è trimestrale ed è appena uscito il nuovo numero, il 34esimo. L'anteprima sui contenuti è a cura di Luigia Marturano. Il nuovo numero di Liberazioni, quello rosso, autunnale, il numero 34, che si apre con l'intervista di Massimo Filippi ad Alessandro Dal Lago, tiene in primo piano le urgenze dei corpi attraversanti e della terra attraversata. Dal Lago delinea un quadro politico di grande lucidità, guardando all'Italia, all'idea di Europa e al principio della libertà di movimento. A proposito della terra attraversata, Claudio Culesco si chiede se le nuove conoscenze rendono ammissibile l'utilizzo per le piante di termini come imparare, ricordare, escogitare. È possibile pensare una coscienza anche nei vegetali e veder sfumare i confini tra mondo vegetale e animale? Nella ricchezza di forme e strutture che si basa sulla differenza, si chiede Alberto Biuso, cos'è l'umano? Da dove viene la nostra ossessione di distanziarci dagli altri viventi? Biuso legge la continuità dell'animalità attraverso tre suggestioni. L'ebbrezza dionisiaca dei tarantati, la riconquista dello spazio da parte dei non umani nel romanzo di Sipazio HG di Guido Morselli e nella lingua animale di Elia Scanetti. L'animalità è differenza nel flusso comune. Fra tutte le manifestazioni di specie, quella umana sta facendo una breve comparsa che sarà a breve scomparsa, accelerata dalla cecità proprio di Homo sapiens? Chiara Stefanoni e Francesco Aloe spiegano l'intersezionalità, cioè l'approccio politico verso cui si stanno orientando movimenti e teorie di critica sociale nell'ultimo decennio. L'intersezionalità viene dal femminismo nero degli anni Ottanta e insegna a cogliere la connessione fra le oppressioni. Alexandra Navarro, nella traduzione di Federica Barca, analizza le pratiche speciste in Argentina, dal consumo di carne bovina al linguaggio, attraverso interviste e analisi dei principali periodici del paese, partendo dal presupposto che per chi è onnivoro anche mangiare carne è una scelta ideologica e non cosa ovvia e naturale. In particolare in Argentina la scelta carnista è legata all'identità nazionale e attraverso i soliti processi di occultamento fa sparire le singole soggettività animali e porta ad allontanamento e dissociazione. E visto che siamo in tema di Halloween, la musica della puntata è tutta declinata a figure notturne inquietanti come Siouxsie e Robert Smith. Poi ho nascosto vari quarti della Luna Assassina, mentre gli artisti di cui ci occupiamo con maggior attenzione sono i Death SS di Steve Sylvester, che sono ritornati con un nuovo album che si chiama Rock and Roll Armageddon. E visto che i componenti del gruppo sono vegani e vegetariani, stavolta Steve Sylvester ha scritto un brano in tema animalista. La canzone si chiama per l'appunto Macello, ovvero Slaughterhouse. Buon ascolto! Il pasto gentile, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, sarà a tema. Torniamo a Siena per gustare un piatto tradizionale, ma stavolta una tradizione non violenta e cruelty free. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Ah. cicogna, volpe, tasso, porcospino, cigno, gatto, maialino d'India, scoiattolo, corvo e chissà quanti altri. No, non è l'elenco dei personaggi di una fiaba. Sono tutti animali che un tempo venivano cucinati in ricette tradizionali. Alcune hanno origini lontanissime, ma altre, probabilmente, sono state assaporate anche dai nostri genitori o nonni. Oggi qualcuno sarebbe giustamente disgustato nel vedere un gatto in salmì, eppure non molti anni fa era parte della tanto cara tradizione. O come gli è presa ai palloni questa puntata, potrebbe eccepire qualcuno. Quello che voglio dire con questo bizzarro e un po' macabro discorso è che nel tempo alcune tradizioni le abbiamo modificate e oggi ci sembra giusto averlo fatto. La ricetta che vi propongo è quella dei fici all'aglione, piatto tradizionale senese, perché voglio dire agli amici di Siena che avete nella vostra cultura alimentare un prelibato piatto vegano, vi faccio una richiesta alla maniera fiorentina. Abbozzatela col palio, alcune tradizioni si possono cambiare. Ingredienti per 4 persone per i pici all'aglione sono: per la pasta 400 g di farina di frumento, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale. Per la salsa 8 spicchi di aglio, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, una tazzina di vino bianco, 400 g di pomodori pelati e del sale. Setacciate la farina e disponetela a fontana sulla spianatoia. Impastate con 200 ml di acqua e l'olio extravergine. Aggiungete un pizzico di sale e lavorate fino ad ottenere una pasta liscia e compatta. Passate su tutta la superficie un filo di olio extravergine e lasciate riposare avvolta nella pellicola per 15 minuti. A questo punto tirate una sfoglia alta un centimetro che taglierete a strisce non più larghe di un centimetro. Con le mani unte di olio arrotolate le strisce per formare dei cilindretti, come dei grossi spaghetti che sistemerete sulla spianatoia infarinata. A parte tritate l'aglio molto finemente dopo averlo privato dell'anima interna. Fate rosolare in padella con 2 cucchiai di olio extravergine e prima che si colori bagnate col vino bianco. Lasciatelo evaporare a fiamma viva. Poi abbassate il fuoco e lasciate cuocere una decina di minuti. Aggiungete pomodori pelati spezzandoli con un coltello e fate ritirare a fiamma bassa per circa mezz'ora aggiustando di sale e in caso un pizzico di zucchero per togliere eventuale eccesso di acidità. Lessate i pici in abbondante acqua bollente e salata. Scolateli e uniteli alla salsa. Fate ritirare un minuto nel sugo e servite. Un piccolo consiglio può essere quello di aggiungere 1 o 2 spicchi di aglio in camicia nell'acqua di cottura della pasta. Siamo in chiusura. Vi saluta la nostra redazione al completo, composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 457 della trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.